18:33, buonasera a tutte e a tutti. Ben sintonizzare e sintonizzare sugli 87.9 di Onda Rossa. Questa, come di consueto, è Profondo Rosa, trasmissione a questo punto non so più di cosa, però una volta si parlava di movimenti LGBTQ e culture. E culture e anche storie di vita, a volte. E anche poi si era detto no, movimenti, boh, scena. Scena, ok. Vabbè, di sicuro andiamo in onda intorno alle 18:30 ogni giovedì dagli 87.9 di Onda Rossa e anche in streaming su www.ondarossa.info. Un po' di coordinate relative alla radio che, come ben sapete, non campa ad aria, ma campa senza padroni, senza padrini politici, senza pubblicità dal 1977, grazie soprattutto a chi se la sente e che spesso sottoscrive sul conto corrente 6180 4001, da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. E vabbè, il sito l'abbiamo ricordato. Vi ricordiamo la nostra mail, che è profondorosa@ondarossa.info. E oltre al sito trovate anche le nostre così maldicenze, dicerie, stupidaggini varie sul blog profondorosa.noblogs.org. E come al solito un saluto a tutte e tutti, in particolare a coloro che sono privati della propria libertà. E stasera così farei anche un abbraccio fortissimo a chi è stato, insomma, condannato oggi pomeriggio a 2 anni e 6 mesi. Per fortuna ancora in prima istanza e comunque, insomma, come dire, avremo modo magari di parlarne. Abbiamo sentito poco fa, insomma, l'avvocato fare un breve commento su queste ennesime condanne. Dopo i fatti, insomma, del 14 dicembre 2000, che era 9? 2010, ok. Comunque sono stati praticamente assolti tutti i compagni che, insomma, erano accusati, tranne uno che appunto è stato accusato del reato di lesioni e oltraggio, presumo. Se non ricordo male, insomma, la condanna del PM è stata 2 anni e 6 mesi, è stata completamente, insomma, accolta. E comunque niente, dai, partiamo con la nostra trasmissione, poi magari apriremo un po' delle finestre varie, anche perché c'è ancora un altro processo oggi che si tiene nella città dell'Aquila ed era lì, insomma, allo stupro di una ragazza avvenuto questo 1 anno e mezzo fa all'incirca, in cui è coinvolto appunto come imputato uno dei vari militari, insomma, che stazionano nella città dell'Aquila e che, insomma, entro questa sera dovremmo anche di questa situazione avere la sentenza, quindi capire come si evolverà anche le forme di lotta, insomma, che hanno visto compagne in particolare presenti nella città dell'Aquila per tutto lo svolgimento del processo e che anche, insomma, oggi sono lì a parecchio freddo visto che stanno là di fuori. E allora invece partiamo con la nostra trasmissione. Già da alcune settimane abbiamo affrontato insomma un po' di questioni, abbiamo continuato ad affrontare parecchie delle questioni che in qualche modo ci riguardano da qualche tempo a questa parte, in particolare parlando appunto di omonazionalismo, islamofobia, costruzione insomma dei nemici interni in qualche modo all'interno del mondo occidentale. E abbiamo analizzato in particolare un libro molto interessante che purtroppo in italiano ancora non è stato tradotto, ma per fortuna grazie ai nostri potenti mezzi linguistici e poliglotti siamo riusciti comunque a leggere, così a raccontarvelo un po'. Il libro si intitola Pur quale gay sono passé à droite, quindi perché i gay sono passati a destra, cosa che oltre insomma a coinvolgere il mondo francese di sicuro è un come dire un accadimento che ritroviamo anche in Italia e un po' in tutta Europa. E da qui ripartiamo stasera, fra l'altro non ho ancora presentato la nostra ospite, grazie, ciao, buonasera che in realtà insomma è una voce che penso sentite spesso soprattutto di giovedì pomeriggio da questi microfoni, però oggi fa la lunga, oggi tutto il pomeriggio con voi, yeah! A noi comunque fa piacere insomma averti con noi e parlare. Grazie insieme dell'ospitalità. Prego, figura, non è ospitalità, insomma i microfoni sono assolutamente aperti. E dopodiché l'idea un po' che ce l'ha venuta in mente oggi era cercare di partire un po' dai racconti delle scorse puntate per focalizzarci in maniera un pochino più precisa e concreta su una serie invece di situazioni che nonostante insomma siano strettamente collegate con i discorsi sull'omonazionalismo, sull'islamofobia, sulla costruzione del nemico interno, ci fanno guardare un po' soprattutto all'interno dei movimenti come dire un po' fra di noi per raccontarci e cercare di capire come muoverci in una matassa che insomma sembra abbastanza intricata. Sì, diciamo che appunto in quest'ultimo ciclo di trasmissioni abbiamo ripreso in mano questi concetti su cui sostanzialmente stiamo discutendo e elaborando pratiche almeno da un paio d'anni, insomma almeno da il convegno che, come facciamo breccia, avevamo organizzato qua a Roma rispetto a queste tematiche, e i concetti essenzialmente di omonazionalismo, pinkwashing, eccetera. Cioè siamo andati nuovamente a vedere come diciamo dall'11 settembre del 2001, quindi dall'era Bush, dello scontro di civiltà, siano state in qualche modo ingaggiate o ci sia stato il tentativo di ingaggiare le nostre soggettività, parliamo di lesbiche, gay, trans, femministe, donne, nell'ottica appunto dello scontro di civiltà e quindi in un'ottica razzista, cioè è stata, come dire, c'è tuttora in corso in varie modalità, in maniera molto smaccata in Israele, negli Stati Uniti, in maniera un po' diversa rivolta all'interno nel nord Europa, in maniera meno chiara in Italia, il tentativo appunto di dire noi siamo contro gli immigrati perché questi portano una cultura illiberale in cui non c'è spazio per le libertà delle donne, dei gay, delle lesbiche, eccetera eccetera, oppure portiamo la civiltà attraverso le bombe in Afghanistan o in Iraq Liberare le donne dal burqa. Per liberare le donne dal burqa. Questo sostanzialmente, in sintesi, visto che ne abbiamo insomma a lungo parlato, sono i concetti intorno a cui abbiamo discusso negli ultimi mesi da questi microfoni il giovedì pomeriggio. Sì, è quello che invece stavolta, infatti ci piaceva anche questo discorso così un po' a più voci all'interno sempre insomma della così dei ragionamenti che in qualche modo coinvolgono anche la radio, provare a parlare insomma da analizzando così, scalando la montagna da un altro pendio probabilmente, perché di fatto all'interno soprattutto dei movimenti negli ultimi anni c'è anche un altro tipo di problematica, ovvero se ci è chiaro il tentativo da parte insomma delle varie forme di potere di inglobare le varie soggettività cosiddette eccentriche, insomma che in qualche modo attraverso proprio questo stratagemma della guerra di civiltà vengono cooptate all'interno di uno scontro in atto, che è quello diciamo che possiamo sintetizzare Una volta si chiamava imperialismo, adesso colonialismo, adesso chiaramente i connotati di questo, adesso si chiama imperialismo, imperialismo, colonialismo, insomma, vabbè, continuiamo a usare questi termini qua, di sicuro è un qualche cosa che prima avveniva probabilmente attraverso delle guerre di conquista, quindi un risico territoriale così che ci portava magari in paesi lontani a colonizzare, a fare guerre. Adesso questa cosa chiaramente avviene spesso all'interno della Fortezza Europa, attraverso da un lato i respingimenti, quindi il tentativo di non fare entrare chi viene in Italia o in Europa, insomma, deve attraversare una frontiera, e poi con delle leggi che chiaramente sono quelle sull'immigrazione, sul reato di immigrazione, ricordiamoci che in Italia ci sta, e quindi combattere questa guerra di civiltà, questo scontro all'interno, insomma, del territorio nazionale, chiamando, e la chiamata è chiaramente quella alla difesa del concetto di nazione, quindi anche al concetto di bianchezza, se così vogliamo dirlo, anche se è una parola orrenda, bianchitudine mi pare peggio. Pure su quello, insomma, si potrebbe parlare a lungo, perché negli ultimi anni anche questa parola, cioè intorno a questa parola sono stati costruiti dei percorsi politici di consapevolezza critica, insomma, della bianchezza, no? Quindi, però vabbè. Sì, assolutamente. Però ecco, insomma, quello che in qualche modo volevamo analizzare stasera è proprio il nostro punto di vista rispetto, da un lato, a tutte queste questioni, che mi sembra, insomma, abbastanza chiaro. Anche il nostro continuare a chiamare le cose con il loro nome probabilmente ci pone, no, nella situazione di comprendere, insomma, realmente alcuni accadimenti. Dall'altro, l'estrema difficoltà invece, soprattutto nei movimenti, di districarsi in delle dinamiche che a volte rasentano così il relativismo culturale, la necessità di così a difendere a tutti i costi chi viene chiaramente macerato all'interno di questi processi, a volte però col rischio di mettersi in una situazione di mancanza di critica, mancanza di possibilità di espressione di un pensiero politico rispetto a quello che succede. Sì, diciamo che noi ci siamo trovati nella necessità di affrontare questo discorso, che è un discorso che vuole essere dentro i movimenti, proprio andando avanti nella lettura del libro che abbiamo presentato, che non è la Bibbia, appunto, e quindi ci siamo trovati anche davanti al capitolo che ci ha lasciato perplesse e perplessi, sostanzialmente, laddove si andava a tacciare di islamofobia una lesbica del movimento francese, un personaggio pubblico in Francia, Caroline Fourest, una compagna antifascista che molto ha lottato contro il Front National, soprattutto questo, diciamo, era il suo ambito di intervento, è il suo ambito di intervento, ma che, diciamo, si è tirata addosso accuse di islamofobia e quindi razzismo a causa di un libro che lei ha scritto contro i monoteismi, quindi contro il cristianesimo nelle sue varie forme, tra cui il cattolicesimo, l'ebraismo e l'islam. Ecco, davanti a questo noi siamo rimasti un po' perplessi. Beh, ci credo. Sinceramente, pure io ho avuto la stessa sensazione quando, insomma, mi avete parlato di questo libro, perché effettivamente mi pare che questo discorso, questa critica sia un po' troppo paralizzante, un po' una forma di autocensura, perché sinceramente non si può identificare la religione musulmana con la cultura araba in generale, e comunque non si può non criticare delle forme di controllo sull'autodeterminazione dei soggetti che appunto sono le donne, le lesbiche, i gay, è la religione che mette in atto queste forme di controllo, non si può evitare di criticarla solo perché si rischia di essere accusati di razzismo. Il razzismo è un'altra cosa ed è giusto tenere conto delle critiche che da parte di femministe e lesbiche nere o dei paesi ex colonizzati arrivano nei confronti di una certa parte del femminismo bianco occidentale culturale mainstream che ha attuato una forma di vera e propria colonizzazione discorsiva su, sui corpi delle donne, no? Però questo non può diventare un modo per dire che in nome del rispetto di tutte le culture non si possono criticare invece degli esercizi di potere che appunto producono ulteriori forme di subalternità, no? Sì, secondo me il rischio da un lato, se effettivamente quello che tu dici, no? In qualche modo nel momento in cui impariamo a conoscere il modo attraverso il quale le varie forme di potere, no? Si estrinsecano sui corpi delle persone, in particolare sui corpi, diciamo, di queste soggettività che tu indicavi, appunto le donne in particolare, ma anche le lesbiche, i gay, quindi conosciamo bene che è possibile attraverso, insomma, delle forme discorsive, i saperi, no? Ce l'ha insegnato Michel Foucault questo, andare a costruire delle normalizzazioni, no? O anche, o meglio, come dire, delle forme di discorso che ti dice come devi essere. Come devi essere donna, come devi essere lesbica, come devi essere gay. E questa cosa spesso la facciamo noi stessi su di noi. Perché ricordiamoci che poi i discorsi, no, su queste cose spesso sono stati un'autonarrazione per tanto tempo, però rischiano chiaramente di essere escludenti. Perché a un certo punto si cristallizzano e diventano a loro volta come dire, un discorso normativi, no? Un discorso dominante all'interno anche insomma come dire di un discorso minoritario ci sono comunque sempre dei discorsi dominanti, purtroppo sì. È così. Sì, lì, qui viene fuori appunto il discorso che a volte abbiamo tirato in mezzo, insomma, di Bellux, che è giusto appunto è una femminista, femminista lesbica nera statunitense, che fa appunto il discorso del margine, no? Nel momento in cui il margine parla crea un altro centro e creerà quindi degli altri margini, evidentemente. E anche tra di noi questo evidentemente tra di noi intendo all'interno dei movimenti di soggettività sedicenti eccentriche. Sì, e se di sicuro, insomma, lo conosciamo bene e a volte siamo anche in grado di riconoscerlo, questa sedimentazione di ciò che appunto possiamo sicuramente definire microfisica del potere o comunque molecolarizzazione appunto dei poteri, dall'altra ci dobbiamo anche evitare, come dire, di cadere nella trappola di schierarsi dalla parte di un potere ancora più grande di questo piccolino che andiamo a creare noi stessi e noi stessi, ovvero andare a difendere a spada tratta una religione monoteista, una di quelle tre grandi religioni che raccontavi prima, in questo caso l'Islam, perché molto, insomma, del parlato chiaramente, visto che l'Islam è probabilmente la religione più importante con la quale ci veniamo a scontrare di fronte, no, all'immigrazione da paesi sia dell'Africa che dell'Asia, perché insomma è la religione sicuramente più praticata all'interno di quei paesi, quindi avere di fronte, insomma, questo Moloch di un'altra religione monoteista con la quale andarci a scontrare come se non ci bastasse, insomma, il cattolicesimo dal quale veniamo battezzati e col quale ci ritroviamo, insomma, avere a che fare con i nostri corpi quotidianamente, insomma, il rischio non è da poco, assolutamente. Beh, scusate se abbiamo interrotto un po' così bruscamente, però molto probabilmente ci dobbiamo collegare con L'Aquila per avere appunto notizie del processo contro appunto il militare accusato di stupro di una ragazza, insomma, una cosa che di cui abbiamo parlato più volte durante questi giorni. Vado così, la taglio con l'accetta, però insomma vi mando un po' di musica in modo che possiamo effettuare questo collegamento e raccontare un po' che cosa, come andrà a finire. Infatti 18:53, come ha annunciato poco fa, siamo in collegamento con una compagna che si trova appunto all'Aquila, a causa appunto di un presidio che si svolge ormai da qualche tempo a questa parte. Ogni qualvolta ci sono le varie le varie puntate di questo processo per lo stupro appunto di una ragazza avvenuta all'Aquila da parte di uno dei militari di stanza, insomma, nella città abruzzese dopo il terremoto. Intanto ci senti, ci ascolti, ci senti? Sì, ok, eccomi. Pure noi ti sentiamo bene, buonasera. E niente, così aspettavo un po' qualche notizia e eccoci qua, insomma. Sì, allora, di questa lunghissima giornata, oggi l'ultima udienza del processo appunto contro il militare impiegato nelle operazioni Strade Sicure, accusato di violenza sessuale, lesioni aggravate e tentato omicidio. E oggi, per riassumere insomma come è andata in aula, poi magari sulle considerazioni più politiche, non sono state fatte un po' stamattina, e sono stati sentiti i periti di parte del militare e poi è stato ascoltato anche lui. Poi ci sono state le requisitorie, il PM, perché lo ricordiamo che in questo processo, anche se non sembra così, ma insomma in teoria lui è l'accusato appunto e quindi è la parte della difesa, e il PM ha condotto le indagini su questo tentato omicidio. Il PM ha fatto una richiesta di 14 anni e la sentenza invece, che è stata appena emessa, ha condannato Francesco Tuccia a 8 anni di carcere e 50.000 euro per ora di danni, diciamo, legati appunto ai danni fisici subiti dalla giovane donna, che lo ricordiamo è sopravvissuta a un'aggressione brutale, terribile, ha delle lesioni permanenti e quindi è viva veramente per miracolo. Sul commento della sentenza, io francamente, magari ci sarà anche modo di far commentare l'avvocata, che però adesso è molto stanca, e non l'avvocata di parte del centro antiviolenza, che lo ricordiamo è stato accolto come parte civile in questo processo, è una cosa peraltro molto molto rara. In ogni caso, insomma, la condanna finale è questa, appunto, a 8 anni. Poi ci sarà un processo anche civile per stabilire i cosiddetti danni morali. Al di là, diciamo, appunto gli anni e il tipo di condanna, certo il processo oggi particolarmente è stato veramente pesante, perché le requisitorie degli avvocati di lui, della difesa, sono state terribili, veramente è come essere tornate indietro, forse non siamo mai mosse da là, dai processi degli anni 50. Hanno affermato che il fatto non sussiste, che lei, essendo una bella ragazza, funge da calamita, ha usato proprio questo termine, e che anzi il processo è nato male, inquinato da una campagna mediatica violenta, è stata così definita, e dalla presenza qui, come ricordiamo, ricordavi anche tu, delle compagne, delle associazioni di donne che hanno seguito tutto il processo e sono sempre state fuori dal tribunale in tutte le udienze. Il processo si è svolto a porte chiuse, tranne la lettura della sentenza. Era presente sia lui che lei, e mentre lui è riuscito comunque, diciamo, a uscire dall'aula molto tranquillamente, lei è stata assediata letteralmente dai giornalisti, nonostante avesse chiesto di non essere ripresa né fotografata. Quindi abbiamo dovuto creare un vero e proprio cordone con le giacche, coprirla, farla uscire come, diciamo, la peggiore delle colpevoli. Quindi, insomma, diciamo, la dinamica legata a questi processi si rivela sempre quella che poi da anni denunciamo e le donne denunciano, quindi questa, diciamo, come considerazione di fondo. È stata lei molto brava, insomma, a reggere questa giornata di processo. Del resto ha dimostrato in tutte queste udienze una forza superiore, diciamo, alla media. Avevano anche proposto di coprirla, metterla dietro un tendone per non vedere lui. Lei invece giustamente ha detto: è lui che si dovrebbe vergognare a vedere me. Lui non sembra, insomma, una persona, come dire, che prova vergogna per niente. A questo punto era presente in aula con i suoi avvocati, appunto, sui quali sorvolo, ma insomma hanno fatto veramente delle arringhe difensive della peggior specie, tra l'altro, insomma, con pochi fatti dietro. In ogni caso, questa è, diciamo, la sentenza. Loro hanno già affermato che ricorreranno in appello, appunto insistendo sul fatto che il fatto non sussiste, che la ragazza era consenziente nel farsi quasi massacrare. Un classico proprio, quindi, del genere. Sì, anche esatto. Se in questo caso, appunto, lei è quasi morta, quindi diventa veramente allucinante sostenere che era consenziente, cioè ancora di più del solito, sì. Insomma. Esatto, questa è stata, ai noi, veramente incredibilmente la linea di difesa, che comunque, dato che, insomma, gli anni si sono dimezzati, penso più o meno abbia funzionato, anche se sul commento tecnico della sentenza, perché hanno derubricato, insomma, lui alla fine è stato accusato non di tentato omicidio, che avrebbe portato la pena, diciamo, sopra i 10 anni, certo, ma di violenza sessuale e lesioni gravissime. Questo è, diciamo, la sua accusa al momento. Noi siamo ancora qui in presidio, ovviamente sono stati fatti degli slogan fuori dall'aula dopo la lettura della sentenza, sia ovviamente contro di lui, ma anche in particolare contro i suoi avvocati, che appunto, insomma, c'è anche forse modo e modo di difendere un personaggio del genere, per cui, insomma, sì, la presenza ovviamente delle compagne era importante anche in quest'ultima udienza, e anche per proteggerla appunto dai giornalisti che si sono veramente, appunto, al di là di tutto, comportati ma malissimo, facendo le foto di nascosto coi cellulari, assediandola. Insomma, è stata veramente difficile, è difficile. Sappiamo che le donne, quando scelgono di difendersi dentro un tribunale, ai noi, vanno incontro a questo tipo di dinamiche. Del resto è lo stesso Stato che in qualche modo avvalla la violenza che c'è fuori, comunque la alimenta, è lo stesso che poi si trova dentro le aule dei tribunali. Del resto, insomma, in questo caso è stato proprio lo Stato a mettere Francesco Tuccia su quelle, esatto, strade, a dargli in mano anche, come dire, il patentino di salvatore, no? Perché era là per l'operazione, sì, strade sicure, eccetera. Quindi mai palese come in questo caso quello che stai dicendo. Esatto, esatto. E poi, appunto, come ho anche già detto, c'è tutta una parte molto in ombra in questo processo di altri personaggi che comunque erano presenti al momento dei fatti, accompagnavano lui, i quali, appunto, non sono mai stati iscritti nel registro degli indagati. Uno di loro, Stefano Buccella, che è il figlio del questore o vicequestore dell'Aquila, è stato in un primo momento richiamato dai giudici per falsa testimonianza, perché è entrato in contraddizione. Poi però ha ritrattato nella scorsa udienza, e quindi è decaduta anche questo procedimento, che invece forse avrebbe potuto, con un'indagine diciamo un po' più accurata, portare anche a fatti nuovi, perché l'uso dei cellulari che questi hanno fatto quella stessa sera, o appunto i loro movimenti nella serata, sono testimoniabili volendo fare delle indagini, ma questa cosa insomma anche ulteriormente è decaduta. Comunque noi ovviamente come compagne, come donne, adesso faremo anche uscire un comunicato, si è intorno a questo processo avviato comunque una relazione, un rapporto anche tra appunto compagne femministe, i collettivi, le associazioni di donne, che pensiamo di portare avanti, insomma, data l'urgenza della lotta contro la violenza, nei nostri modi anche diversi, insomma, una situazione dall'altra, però contiamo di incontrarci di nuovo probabilmente a livello nazionale, stiamo valutando eventualmente un'assemblea per capire insomma in ogni caso come procedere insieme in tanti fronti diversi, ma comunque unite in una battaglia che appunto pensiamo sia abbastanza fondamentale. Sì, e questo insomma sentiamo nella sua voce tutta la pesantezza, sì, della giornata. È stata una dura giornata, e, sì, sì. Però insomma ci teniamo anche la determinazione di questa ragazza che è passata attraverso questo ennesimo calvario che è stato il processo, e soprattutto poi la forza della solidarietà e della lotta collettiva delle donne, delle femministe, delle lesbiche, che insomma concretamente in questo caso è molto evidente, insomma. Sì, è molto importante, lei stessa, ma non poi per dire, insomma, comunque ci aveva anche all'inizio ovviamente contattate e chiamate, ma poi anche nel corso di queste udienze tante volte, anche oggi, ci ha ringraziato per la presenza, perché appunto è fondamentale, sappiamo che dentro il tribunale questo tipo di accoglienza e solidarietà ovviamente non si trova. Va bene, dai, non ti vogliamo tenere più di tanto ancora al microfono. Intanto grazie mille della corrispondenza, e sicuramente insomma avremo modo di parlarne ulteriormente, sia insomma commentando magari con le avvocata il processo, e magari poi successivamente anche andando a raccontare quali saranno i successivi percorsi di lotta contro la violenza sulle donne. Certo, che ci saranno anche perché devono uscire ancora le motivazioni della sentenza, è stata letta solo diciamo la parte conclusiva, quindi siamo anche in attesa di capire quali motivazioni ci sono dietro, ma comunque continueremo insomma in qualche modo al di là di questo processo a lavorare insieme, questo mi sembra il dato più importante, e anche a lavorare qui all'Aquila insieme, che in fondo è abbastanza vicino a Roma ed è un territorio, lo ricordavamo anche stamattina, fortemente militarizzato, il problema ovviamente persiste, quindi in qualche modo bisognerà essere incisive anche in territori come questo, vedremo. Va bene, intanto grazie, ti ringraziamo. A voi, un saluto a tutte e a tutti. Ciao. I was a friend. Where 19.09, torniamo nuovamente in diretta, siete sempre all'ascolto di Onda Rossa. Allora, insomma, nonostante la difficoltà di una giornata assolutamente così piena di avvenimenti e soprattutto, insomma, cupa per certi versi, insomma, la corrispondenza con la compagna dall'Aquila parla un po' da sola, al di là, insomma, delle questioni giudiziarie dei quali ce ne frega abbastanza poco, a meno che, insomma, non così non ci vediamo direttamente coinvolti a finire dentro quattro mura per alcuni anni. C'è la pesantezza proprio di una situazione come un processo per stupro e la presenza soprattutto di questa ragazza lì che, insomma, voglio dire, veramente a testa alta ad affrontare una situazione come questa in cui ti trovi il tuo carnefice, quello che ha provato ad ammazzarti di fronte, e non solo quello, insomma, tutta la retorica, la pletora lì di giornalisti e aguzzini vari che vuole così il commento a caldo, mi sembra veramente una cosa abbastanza ripugnante. Condita poi anche dalle, insomma, dall'arringhe degli avvocati difensori che comunque continuano a scomodare delle forme che poi in effetti non cambiano mai, che sono quelle, insomma, del più bieco patriarcato, la più schifosa probabilmente espressione, quella della donna consenziente, della bella ragazza che fa da attrattore per uno che ha provato ad ammazzarla, insomma. No, ma veramente era inverosimile sentire, no, come sia stata portata avanti questa linea di difesa. Cioè, dopo tanti anni ogni processo per stupro si trasforma sempre in un processo alla vittima e gli avvocati sono proprio, diventano anche loro dei carnefici perché mettono alla gogna la persona che invece ha avuto la forza di denunciare, no, che ha subito la violenza. E sentirlo dire in un caso in cui una donna ne è uscita, insomma, viva per miracolo, veramente, cioè, farci credere che fosse consenziente è la cosa più inverosimile, più illogica, insomma. Sì, sono proprio tutte le istituzioni intorno, no, che, come dire, ricostruiscono sempre le mura del patriarcato, cioè da una parte appunto gli avvocati, dall'altra lo Stato stesso che mette una divisa addosso a questo e gli dà patenti di impunibilità sostanzialmente, dall'altra i media che appunto come da sempre sostanzialmente vanno a indagare su chi ha subito una violenza atroce. Questo lo sa, anche in questo caso lo fanno fin dal primo giorno, ci hanno raccontato come era vestita, come non era vestita, cioè delle cose veramente schifose, non c'è nient'altro da dire, insomma. Ci teniamo appunto la forza sua e delle compagne, e sul resto si può parlare a lungo, ma al di là dello schifo, insomma, non c'è granché da dire. Purtroppo no. E niente, magari riproviamo così, per quanto insomma difficoltosissimo, a ritessere un po' le fila di quello di cui stavamo dibattendo prima di questa corrispondenza. Insomma, stavamo così cercando di puntare l'occhio su questo un po' doppio legame, io lo definirei un po' così, una situazione un po' che a volte rischia di diventare uno stallo politico. Quando di fronte alle possibilità di costruire dei discorsi che siano che diventano dominanti, no, all'interno anche dei movimenti stessi, riguardo appunto l'immigrazione, riguardo le culture di provenienza e spesso anche la ricostituzione, no, di forme culturali e sottoculturali all'interno, insomma, del paese in cui si migra. Che rischiano di diventare, insomma, così un punto di stallo, un punto di non ritorno al quale è difficile dipanare le matasse. Forse una volta era un po' più semplice, nel senso che di sicuro le forme sottoculturali acquisivano da un lato, insomma, non si intersecavano in maniera così netta con dei fenomeni anche religiosi. Io sinceramente, a parte molto probabilmente la cultura giamaicana, che è molto invece intrisa di retorica religiosa, perché ha anche avuto un senso all'interno della liberazione del, se c'è mai c'è stata, chiamiamola così, comunque dei tentativi di liberazione del popolo giamaicano, che comunque ha utilizzato, insomma, le forme, o meglio una rilettura della Bibbia, per in qualche modo costituirsi delle radici che per chi era deportato dall'Africa ed è arrivato in Giamaica, e non solo, insomma, chiaramente erano state strappate, erano state disintegrate. Però ricordiamoci che le forme che hanno avuto queste forme così sottoculturali all'interno, per esempio, dei paesi europei, e ricordiamoci, insomma, per esempio in Inghilterra, un paese in cui l'immigrazione giamaicana è stata gigantesca, si sono intersecate, sono intrecciate e hanno dato vita a delle altre cose, a qualcosa d'altro che riconosciamo direttamente come politico e riconosciamo direttamente come anticapitalista. A volte di sicuro che non si porta appresso le retoriche della religione, della Bibbia, anche se da lì in qualche modo proveniva. Penso alle rivolte in Inghilterra del 1977, penso, ve la butto lì proprio in maniera anche abbastanza stupida, a gente tipo Peter Tosh, a gruppi come i Clash, che hanno fatto, insomma, della commissione di differenti, no, modi proprio di intendere l'andare contro la cultura dominante, eppure, cioè, questa commissione, insomma, io ce la trovo, cioè i Clash hanno questo discorso è provocatorio cioè vuoi infiammare questa discussione adesso qua dentro, perché insomma è una questione di cui potremmo parlare a lungo, di cui la redazione della radio si è occupata a lungo, proprio perché è un dibattito che all'interno di chi, insomma, ascolta la musica reggae è stato un dibattito molto acceso, e questa radio è un genere musicale che ha trasmesso, che ha contribuito, che continua a trasmettere avanti, e che, insomma, ha contribuito a far conoscere in questa città, e insomma a creare anche una vera e propria, appunto, scena in cui c'era una produzione di controculture. Però è anche vero che proprio lì ci siamo trovati a mettere in discussione quest'uso della religione, che poi è sempre comunque la religione cristiana, che appunto, come dicevi dicevi tu, è stata riletta e riarticolata a partire dall'esperienza del colonialismo e della tratta degli schiavi, ed è stata utilizzata nella lotta di liberazione dal colonialismo britannico nei Caraibi proprio come uno strumento di resistenza. Però poi dall'altra parte questa religione è sempre stata, come tutte le religioni, anche uno strumento appunto di oppressione, di controllo sui corpi delle persone, di controllo della loro sessualità. E infatti proprio tutto quel discorso sull'omofobia nella musica che abbiamo fatto tante volte da questi microfoni era comunque anche una critica alla religione, alla religione come strumento di potere e di controllo. Infatti, guarda caso, ci hanno accusato anche lì di essere dei razzisti. Infatti questa cosa a me mi fa un po' pensare. Ogni qualvolta, per esempio, la voglio riportare così, questa digressione era necessaria per certi versi, proprio per riportarla sui discorsi che ci facevamo appunto rispetto, per esempio, alla questione Islam, in quanto cioè, la questione del velo, che è una cosa molto molto molto similare, rischia di diventare un altro di questi, di queste situazioni in cui per certi versi il velo viene vissuto, no, da chi lo porta, penso soprattutto alle giovani migranti, come momento di, così, di differenza, no, rispetto alla cultura che le abbraccia, le travolge del paese di anche alle forme di assimilazione forzata che vengono operate nei confronti delle persone migranti. Sicuramente questo fatto c'è, quindi per assurdo l'ostentazione così di una appartenenza religiosa o comunque di un dettame religioso come quello del velo rischia di diventare, insomma, un fenomeno sottoculturale o controculturale addirittura. Però dall'altra sta comunque scritto all'interno di un qualche cosa che ha a che fare con la religione, e secondo me è qui che si crea questo doppio legame, questo doppio vincolo, ovvero questi piani differenti che stanno su piani differenti, e che il confonderli, ovvero il confondere cultura per religione, rischia di diventare veramente una sabbia mobile completamente così nel quale ci impantaniamo e dal quale non riusciamo a uscire. Sì, proprio una forma di paralisi che ti impedisce poi un agire politico, perché in nome della difesa, del rispetto delle differenti culture, poi si finisce per non poter prendere nessuna posizione contro appunto queste che sono forme di violenza, di controllo, di limitazione delle libertà delle persone. E invece io sinceramente rivendico il diritto di poter criticare appunto certi dettami della religione, pur senza ergermi a giudice dei processi di liberazione di altre soggettività, nel senso che poi il discorso che viene fatto molto spesso, che sentiamo proprio anche non solo sui media più mainstream, ma anche da parte di compagni e compagni che vorrebbero difendere la libertà di scelta delle persone, proprio a partire dal prendere in carico la propria responsabilità di essere comunque nati e nate in Occidente, nella parte insomma più potente del mondo. Cioè, a me sembra questo da una parte un passo che va fatto, cioè dover riconoscere che non possiamo automaticamente pensare che le persone che ad esempio appunto portano il velo o seguono insomma altri dettami di una religione automaticamente siano più meno capaci di noi di autodeterminarsi e di fare delle scelte consapevoli. Però dall'altra parte non possiamo nemmeno in questo modo per la paura di appunto criticare un'altra cultura, come se appunto la cultura e la religione fossero la stessa cosa, evitare di prendere la parola, perché questo significa poi arrivare all'impossibilità di costruire anche dei percorsi politici e delle pratiche collettive. Sì, è un discorso molto molto complesso a mio parere, nel senso che tra il 77, si citava prima, e oggi ci sono stati, diciamo, dei fenomeni globali, geopolitici, che hanno spostato completamente, diciamo, certe attenzioni. Parliamo della nascita dell'inasprirsi, dei fondamentalismi religiosi, che non sono ovviamente solo quelli islamico, ma basta guardare Ratzinger, insomma, che porta ad andare molto lontano, o anche insomma la stessa ebraismo nelle forme, come dire, più violente proprio dei coloni israeliani, insomma, se vogliamo andare a prendere la punta. Quindi, insomma, è un fenomeno globale che si verifica in tutte e tre i monoteismi, da una parte. Certo. Dall'altra ci sono dei discorsi che però sono reali, e c'è quindi l'uso dell'islamofobia con finalità imperialiste, insomma, da parte degli stati. È un dato di fatto, certo, È un dato di fatto anche che, come dire, l'antirazzismo, se lo si può definire così, istituzionale, quello buonista, alla PD, sostanzialmente, per esempio, rafforza moltissimo la sudditanza alle figure religiose delle comunità di immigrati ed immigrate. Cioè, quando si vuol parlare con una comunità che viene dal Maghreb o dal Medio Oriente, si parla con un imam, normalmente, non noi, sto dicendo le istituzioni e contesti. Anche una certa parte della sinistra, appunto. Una certa parte della sinistra, dei parlamentari, dei partiti, eccetera, eccetera. Insomma, questo, per esempio, in Toscana, lo dico, insomma, per esperienza, è un fenomeno molto forte. Insomma, quando si parla di laicità, si fa parlare un imam, un rabbino, normalmente, e un prete buono. Così come rappresentanti, insomma, di una comunità. Sì, cioè, la laicità vuol dire, da questo punto di vista, avere tanti preti religiosi diversi che controllano le nostre vite, evidentemente. Quindi tutto ciò esiste, ma dall'altra parte, per noi, insomma, invece portiamo avanti percorsi autodeterminati, o perlomeno percorsi per l'autodeterminazione, la difficoltà è un'altra. La difficoltà è nel momento in cui io mi trovo a costruire dei percorsi politici con compagni e compagne che si definiscono, per esempio, non è un fenomeno italiano, è un fenomeno inglese, Queer of Islam, e quindi il posizionamento muove da cioè il percorso muove da un posizionamento religioso, per me diventa un problema, perché io parto dall'idea di distruggere le religioni, e quindi diventa difficile trovare il terreno su cui costruire insieme dei percorsi di liberazione. Perché nella religione io penso che non ci sia liberazione. Assolutamente no, sono d'accordissimo su questo, penso che, insomma, ci troviamo assolutamente in sintonia. E ritornando al discorso di prima, penso che all'interno, insomma, di un agire politico che dovrebbe, insomma, contraddistinguere le varie forme di movimenti e le varie possibilità di autodeterminazione delle persone, non possiamo partire da una religione come una qualsiasi religione, ci metto pure il buddismo, per quanto sembri, insomma, come dire, la meno pericolosa sotto questo punto di vista, per cambiare lo stato di cose presenti. Cioè, io penso, parto sempre da quello, se la mia forma così di lotta all'esistente diventa il fare mio un precetto religioso contro un altro status quo, e questa cosa è pericolosissima. Cioè, lo posso fare forse per scherzo o per deturnazione, come si diceva una volta, ovvero cercando di muovere all'interno, no, dei giochi, delle identità, un qualche cosa che sia spiazzante nei confronti di chi mi sta guardando. Non è questo il velo non è un deturmant situazionista, il velo è anzi ci riconduce per forza di cose a un'identità molto forte che ha a che fare direttamente con la religione, che ha a che fare direttamente con la costruzione di una comunità basata su quel tipo di esperienza condivisa. Io sinceramente non so proprio che farmene. Mi dispiace, cioè, con tutta l'apertura possibile, però anzi, cioè, non posso accettarlo, mi dispiace, non è accettabile. Io sinceramente dal mio punto di vista sono d'accordo con te, però vorrei aggiungere un aspetto che appunto è quello che complica poi il discorso, cioè il fatto che voi parlavate insomma dei cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi 30 anni e in questi insomma bisogna secondo me anche metterci che all'interno del femminismo, del movimento della pratica politica femminista, dell'elaborazione teorica, è successo anche una sorta di rivoluzione al suo interno, nel senso che tu citavi prima appunto Bell Hooks, che è una femminista afroamericana, ma insomma hanno preso parola appunto sia le femministe nere afroamericane, sia le femministe che provengono da diciamo il sud del mondo, i paesi ex colonizzati, e molte di loro insomma vivono in Occidente e quindi hanno preso la parola per criticare il femminismo europeo e nordamericano, che è stato elaborato da sempre a partire appunto dai desideri e dalle esperienze specifiche delle donne bianche occidentali di classe media e eterosessuali molto spesso. Per cui questa critica secondo me è fondamentale e oggi non possiamo evitare di farci i conti. E voglio fare un esempio di un testo che secondo me è stato fondamentale in questa riflessione, che è un testo di una femminista indiana che vive negli Stati Uniti, Chandra Mohanty, che appunto analizza proprio i discorsi delle femministe occidentali sulle cosiddette donne del terzo mondo, e lei spiega che questi discorsi creano una forma di colonizzazione discorsiva, nel senso che le donne del primo mondo si autorappresentano come in qualche modo superiori, più emancipate, libere, capaci di autodeterminarsi, di controllare il proprio corpo e la propria sessualità, libere dal controllo della famiglia, dello Stato e della religione e della loro cultura, proprio quando rappresentano invece le donne del terzo mondo come delle vittime da salvare, come delle donne che sono oppresse, subalterne, incapaci di autodeterminarsi e controllare il proprio corpo e vittime appunto della religione. Ecco, questa costruzione della vittima secondo me oggi è ancora presente in molti di quei discorsi, come dicevate voi, fatti anche appunto dalla sinistra in Italia, per cui dobbiamo andare a salvare le donne afghane dal burka e allora facciamo la guerra, dobbiamo aiutare le donne immigrate che vivono in questo paese e che sono vittima dell'oppressione patriarcale, sì, tra l'altro, all'interno della famiglia. Ti interrompo solo un attimo, per esempio le donne afghane non avevano nessun bisogno che noi andassimo a liberarle dal burka, visto che avevano percorsi di liberazione marxisti, all'associazione rivoluzionaria delle donne afghane, che insomma piuttosto forti, piuttosto avevano bisogno che non finanziassimo i gruppi armati locali e poi le andassimo a bombardare di conseguenza, insomma. Certo. No, ma infatti la cosa paradossale è che poi appunto non si parla mai invece di quei percorsi reali di donne femministe, lesbiche, gay, trans, che esistono poi in realtà ormai in ogni parte del mondo, però si parla invece dei casi umani da salvare a seconda poi dell'occorrenza, della necessità, del momento, per cui non so perché una cosa che troviamo spesso sui media, insomma leggendo le notizie che riguardano i diritti delle donne in altri paesi del mondo, sono le donne vittime in paesi a maggioranza musulmana, quelle che non riescono a esercitare il loro diritto a, certo, essere cattoliche. Non si sa com'è, questo è il problema primario per le donne. Oppure sono iraniane o oggi siriane, mentre non so, di quelle saudite nessuno gliene frega niente. Non gliene interessa niente a nessuno. Non so se vi ricordate il caso di Sakineh, ne abbiamo parlato tanto, sì, sì, insomma, no, pure qui per radio. Cioè, in alcuni casi, quando bisogna costruire il nemico, come dicevate voi a partire dal, no, il libro della studiosa francese, allora ci fa gioco, insomma è utile criminalizzare una cultura, una religione, un intero popolo, e invece è molto più difficile criticare quando appunto bisogna prendere cioè mi sembra che a un certo punto questa paura di non offendere le altre culture, le altre religioni, ricada in una sorta di relativismo culturale per cui tutte le culture vanno protette, tutte le culture vanno giustificate, mentre insomma non è così, nel senso che se ci sono delle religioni o comunque dei dispositivi di potere all'interno di quelle culture, insomma è giusto criticarle, ovviamente non a partire da una relazione di superiorità per cui io ti dico che tu sei sottomessa e ti vengo a salvare, insomma, perché poi ognuno deve elaborare i suoi percorsi di liberazione e di emancipazione, però se vogliamo costruire anche delle reti, delle alleanze tra soggetti che hanno appunto provenienze geografiche o culturali diverse, bisogna pure riconoscere, insomma, sì, i reciproci percorsi, alle persone il diritto di elaborare a partire dalla propria esperienza specifica i suoi, certo, percorsi di liberazione, però non possiamo nemmeno, sì, no, nel giustificare senso, tutto. No, infatti no, è proprio questo secondo me uno dei punti, e poi vabbè, magari rimandiamo alla prossima settimana, visto che sono già le 7:30 e ci sta pure insomma un po' di GR da mandare, e, insomma, ricordarci anche sempre e da che, come dire, da quale punto si parla, qual è il nostro posizionamento all'interno insomma di questo tipo di dinamica, e insomma non mi sembra che noi andiamo a decantare le odi del mondo WASP, del capitalismo occidentale, di quanto ci abbia liberato dal punto di vista insomma della nostra sessualità. Io penso che, per esempio, rispetto a una questione, la buttiamo lì, ma visto che ne parliamo poi spessissimo da questi microfoni, da questa trasmissione, ovvero l'eterosessualità obbligatoria, tutte e tre le religioni ci fanno cacare, nel senso che vanno a riportare esattamente lo stesso tipo di dinamica da una parte e dall'altra, in cui l'eterosessualità obbligatoria è il punto nevralgico attraverso il quale poi si dipana l'appartenenza o meno non solo a una comunità, ma a volte anche proprio all'essere umani o meno, quindi all'appartenenza insomma manco a un genere ma proprio all'umanità nella sua interezza, per quanto insomma sia un po' neutro questo termine, e che guarda caso insomma in tutte e tre le dinamiche la troviamo come dire, come punto dirimente in assoluto, e a me sinceramente il mio posizionamento contro l'eterosessualità obbligatoria penso che mi permetta di dire che mi fa schifo il Papa quanto mi fa schifo un imam, quanto mi fa schifo un rabbino, quanto mi fa schifo un prete ortodosso, eccetera eccetera, insomma quanto mi fa schifo il velo di una suora o il velo di una ragazza o un burka o non so cos'altro, insomma. Sì, io direi che chiudiamo, sì, qua perché sono le 19:33 e rimane da affrontare, speriamo insomma di farlo a tre voci, come dire, nello specifico un rischio che nei movimenti antagonisti abbiamo, e cioè quello che per la paura di essere imperialisti si finisca così, per non democristiani? Non voglio esagerare e dire democristiani, però insomma, democratici finisca, sì. No, di essere appunto portatori di relativismo culturale, che è un Moloch assolutamente soffocante, oltre che antifemminista. Va bene, dai, chiudiamo qua per stasera. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre alle 18:30, e sempre agli 87.9 di Onda Rossa. Grazie a voi della chiacchierata. Insomma, io spero che ci ritroviamo quanto prima per rifarlo. Anch'io. Ci è piaciuta. siamo state bene. 19:34, qualche secondo di musica, e poi io direi anche qualche minuto di musica, in modo che ci prepariamo un pochino di GR. Io vi lascio con una traccia quanto mai, come dire, attuale nella sua vecchiaia, perché insomma penso che ci abbia un po' più di 20 anni, però ci piace sempre ascoltarla e dice insomma un sacco di cose importanti.